commossi, portati, messi a disposizione dai familiari, perché sulla causa della morte non vi è alcun dubbio. A Pontida, provincia di Bergamo, non si abbassano le sbarre di un passaggio a livello. Un treno investe l'ambulanza, morti padre e figlio, gravissimo l'autista. Legge di stabilità, senza modifica 3 milioni e mezzo di disoccupati, dice Angeletti. Oggi riunione della Banca Centrale Europea e dopo i dati sull'inflazione qualcuno spera in un taglio dei tassi. 20 morti sospette negli stabilimenti Olivetti, la procura di Ivrea apre un'inchiesta, si ipotizza che la causa sia l'amianto, indagato De Benedetti che dice sono estraneo alla vicenda. PD, ancora il tesseramento al centro della discussione, Renzi aperto ad uno stop dopo i problemi dei giorni scorsi, tra poco ospite Pippo Civati, contrario alla chiusura. La polizia greca fa irruzione nella sede della ERT, la TV pubblica chiusa in giugno, occupata dai dipendenti licenziati, scontri e lancio di lacrimogeni. Medici di famiglia verso una rivoluzione, il Sole 24 Ore pubblica i dettagli dell'atto di indirizzo, previste nuove aggregazioni con pediatri e specialisti e aperture 24 ore su 24. Ed eccoci, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come avete sentito, abbiamo deciso di aprire con la cronaca. L'audio che avete sentito in apertura era quello di Maria Cristina Rota, la PM che si sta occupando della vicenda. La vicenda qual è? Il fatto che non si sono abbassate le sbarre di un passaggio a livello nella zona di Pontida, siamo in provincia di Bergamo, e come vi dicevamo dai titoli, un treno ha investito un'ambulanza. Ci colleghiamo con Pier Guido Vanalli, che è il sindaco di Pontida. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, qual è la situazione adesso, sindaco? Beh, guardi, i corpi delle due persone sono state portate proprio 5 minuti fa in camera mortuaria per essere ricomposti e poi consegnate alle famiglie, e si stanno facendo i primi rilievi e le prime valutazioni. Però ecco, sentivo, di fatto le sbarre erano chiuse, si sono alzate, è passata l'ambulanza, è arrivato il treno, così è successo. Il perché ancora non è chiaro ed è quello che devono scoprire. Da quello che sapete voi, sindaco, era a rischio, per così dire, quel passaggio a livello? Cioè c'erano già stati problemi? Praticamente quasi 4 passaggi a livello sul territorio comunale, uno come tutti gli altri, che a detta, da quanto ne so io, eccetera, non è che non abbia mai dato problemi, ma come tutti i passaggi a livello, tant'è vero che le direttive delle ferrovie sono di eliminarne il più possibile, proprio perché, essendo meccanismi che possono magari dare dei problemi, è sempre meglio non averli, quindi passarci sopra o sotto la ferrovia. Quindi, però recentemente non aveva dato problemi, perlomeno non che fossimo venuti a conoscenza di problemi. Le due persone che hanno perso la vita erano vostri concittadini, sindaco? No, di un comune vicino, erano padre e figlio. Il padre stava per essere ricoverato nella casa di ricovero, appunto, che abbiamo qui, il figlio lo stava accompagnando, e dietro l'ambulanza purtroppo c'era anche in macchina il fratello di uno del figlio, appunto, e la moglie del deceduto. Quindi hanno visto il marito, il fratello e il suocero travolti dal treno in diretta. Grazie per Guido Vanalli, sindaco di Pontida, per questi aggiornamenti e buona giornata. Noi restiamo alla cronaca con una storia che arriva da Roma, una donna sotto sfratto, barricata in casa, minacciato di darsi fuoco. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Polizia e vigili del fuoco stanno cercando di far ragionare questa donna che ha 59 anni, lo dicevi, è sotto sfratto e minaccia di darsi fuoco all'esterno della sua abitazione, che si trova a Morena, che è un comune alle porte di Roma. La donna ha con sé 2 taniche di benzina e questa mattina ha già appiccato un incendio, che però fortunatamente è stato subito spento dai vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente. A quanto sembra, all'origine di questo suo gesto, di questa sua protesta, ci sarebbe la visita di un ufficiale giudiziario che stamattina le avrebbe notificato lo sfratto esecutivo. Tra l'altro, la sua casa sarebbe stata già venduta all'asta, di qui questa sua reazione disperata. Ora, come dicevo, la polizia sta cercando di tranquillizzarla per farla desistere dal suo proposito. Per ora è tutto, Simone. Grazie dunque anche ad Andrea Viali. Noi veniamo all'economia, iniziando dalla Banca Centrale Europea. Oggi la riunione, il livello dell'inflazione nell'eurozona allo 0,7%, i rischi di deflazione addirittura hanno moltiplicato le pressioni perché intervenga sui tassi. Tra un attimo ci collegheremo con Francoforte e con Alessandro Merli per capire che cosa, se abbiamo qualche speranza, appunto, che la BCE tagli i tassi. Intanto tutto, restiamo sull'economia e veniamo alla parte politica. In queste ore l'attenzione è soprattutto concentrata ovviamente sulla legge di stabilità. Poco fa le dichiarazioni del leader della UIL, Luigi Angeletti, che dice se resta così ci saranno 3,5 milioni di disoccupati. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Politica concentrata dunque sulla legge di stabilità, i cui contenuti saranno determinanti per la tenuta dello stesso governo Letta, e allora il provvedimento subisce in queste ore il tradizionale assalto di migliaia di emendamenti, ad oggi più di 3,000, ma c'è tempo sino a sabato per depositare le proposte di modifica. Due i temi caldi tra tutti, il taglio della fiscalità sul costo del lavoro e la seconda rata dell'IMU. In tutti e due i casi vi è un problema di coperture, i tecnici del Tesoro sarebbero alla ricerca di quel miliardo in più rispetto a quanto previsto, che permetterebbe di risolvere tante situazioni, in particolare il capitolo casa costa 2,4 miliardi e per le coperture si tornerebbe a parlare di un aumento degli acconti IRES ed IRAP limitandoli alle banche e alle assicurazioni, perderebbe consistenza invece l'ipotesi di rivalutare le quote di Banca Italia. Tra le novità delle ultime ore vi è poi il cosiddetto collegato alla legge di stabilità, 16 articoli, 160 pagine, dalla norma taglia bollette a costi zero nel caso di trasferimento del conto corrente bancario, bonus fiscale infine per le imprese che investono in ricerca. E da Roma è tutto. Grazie dunque ad Andrea Viali. E veniamo, come si diceva, alla riunione della Banca Centrale Europea di oggi. Si diceva il livello di inflazione dell'Eurozona fa sperare, insomma, e moltiplica le pressioni perché la BCE intervenga sui tassi. Alessandro Merli da Francoforte, corrispondente del Sole 24 Ore. Abbiamo qualche speranza? Ma sicuramente le pressioni sono molto aumentate dopo il dato dell'inflazione che ricordavi della settimana scorsa, allo 0,7%, quindi meno della metà dell'obiettivo della BCE. L'aspettativa dei mercati e della maggior parte degli economisti è che la BCE non tagli oggi, ma aspetti dicembre, quando fornirà le proprie proiezioni sull'inflazione, che probabilmente verranno ritoccate al ribasso. C'è uno spiraglio di un taglio oggi perché Draghi è abituato a sorprendere, lo ha fatto l'anno scorso quando si è, anzi due anni fa ormai, quando si è insediato alla guida della BCE, però l'aspettativa generale è che se la BCE si muoverà lo farà a dicembre e non nella riunione di oggi. Naturalmente ci torneremo a collegare con te, Alessandro, e lo faremo nel corso di Europa 24, dopo le due, per sapere anche quali sono le notizie che arrivano dalla Banca Centrale Europea. Restate in ascolto di Effetto Giorno perché arrivano alle 13.45 e quindi saremo in tempo per dirvi se i tassi sono stati tagliati oppure no. Veniamo adesso, visto che stiamo parlando di Europa, alla Grecia e alla situazione in Grecia, in particolare a quello che è successo questa notte. Allora, in giugno era stata chiusa, come sapete, tra mille polemiche, la TV pubblica. Era occupata in queste ore dai dipendenti licenziati. Questa notte la polizia greca ha fatto irruzione nella sede, ci sono stati scontri e lancio di lacrimogeni. Ci colleghiamo con Dimitri Deliolanes, che prima della chiusura della ERT era il corrispondente da Roma della TV pubblica greca. Dimitri, innanzitutto ti saluto, buongiorno. Buongiorno, e lo sono continuato anche dopo la chiusura perché la ERT ha continuato a trasmettere via streaming e quindi io mandavo corrispondenze dall'Italia. Mandavi corrispondenze dall'Italia, sì. Le stai continuando a mandare. Allora, Dimitri, che cosa è successo questa notte? C'è stata questa operazione massiccia di polizia che ha preso in maniera, diciamo così, non proprio delicata possesso di questo palazzo della radiotelevisione in autogestione da più di 4 mesi, e questa è un'altra novità, diciamo, in assoluto che ha inaugurato la Grecia. Le notizie di lacrimogeni veramente non ce le ho. Io so che l'operazione è avvenuta in maniera relativamente pacifica, non c'è stata resistenza da parte dei lavoratori dell'ERT. E in questo momento c'è un'enorme manifestazione fuori dal palazzo della radiotelevisione greca, e dentro c'è un'operazione di censimento di tutte le costose apparecchiature che sono rimaste custodite per più di 4 mesi da parte degli autogestiti, in presenza del procuratore della Repubblica e di 4 miei colleghi. Frequenze e materiali, Dimitri, a chi sono destinate? Cioè, che cosa succederà di questa televisione? Guarda, allora, il governo ha fatto l'annuncio televisivo l'11 giugno che da mezzanotte la società per azioni aveva smesso di esistere, sarebbe stata liquidata. Però l'azione penale l'ha fatta, di liquidazione l'ha fatta molte settimane più tardi, e quindi adesso tutto qua, non esiste più l'ERT SRL, esiste tutte le sue proprietà sono passate al Ministero delle Finanze, cioè a Sturnaras. Sì, quindi insomma dovrà gestire lui e probabilmente le darà alla nuova televisione pubblica che sta cercando il governo di creare tra mille difficoltà politiche. Ma anche organizzative e di audience, direi. Grazie a Dimitri, sì. Deliolanes, corrispondente della TV pubblica greca da Roma, e noi torniamo all'Italia per parlare di Olivetti e dell'inchiesta che ha aperto la procura di Ivrea su 20 morti che si sospetta siano state causate dall'amianto. Ci colleghiamo con il collega del Sole 24 Ore da Torino, Augusto Grandi. Allora Augusto, buongiorno. Innanzitutto, che cosa ci puoi dire in più su questa inchiesta? Buongiorno a voi. Innanzitutto i morti per fortuna sono 15, i 21 sono i casi di mesotelioma, però per il momento i decessi sono ancora 15 e si spera che si possano fermare a 15. E sono tutte patologie riconducibili appunto alla presenza di amianto in questi tre stabilimenti del Canavese, quindi nella zona di Ivrea, che sono quelli di Scarmagno, San Bernardo e Strambino. Le fabbriche sono state costruite oggettivamente prima dell'arrivo di De Benedetti e di Passera, che sono alcuni dei 20 indagati, ma quello che viene contestato agli amministratori successivi è quello di non essere intervenuti per mettere a norma gli stabilimenti. Ci sono già stati alcuni processi con il vecchio amministratore delegato dell'Olivetti, che però è deceduto e quindi tutto è finito in nulla, però partendo da queste condanne del vecchio amministratore si è andati avanti e adesso si è arrivati a questa indagine che riguarda appunto oltre 20 persone. Grazie ad Augusto Grandi in diretta da Torino, e ritorniamo a Roma. Oggi è stato presentato il progetto per il padiglione italiano dell'Expo 2015, naturalmente, scusate, 2011 è già passato, con tanto di plastico. Alessandra Schepisi, raccontaci com'è fatto. Ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Intanto diciamo che questo plastico scala 1,50 di quello che sarà il nostro padiglione all'esposizione universale, resterà qui fino a gennaio 2014 a disposizione dei visitatori. Si tratta in sostanza, potremmo definirlo così, una foresta urbana che vive e cresce in modo energicamente sostenibile, dunque una struttura che richiama il tema dell'Expo, cioè nutrire il pianeta, energia per la vita, un edificio che assume le sembianze di un vero e proprio albero della vita, con radici che affondano su 5 principi: acqua, energia, trasparenza, natura, tecnologia. C'è un involucro esterno, una vera e propria pelle ramificata, 5 piani in altezza, l'altezza reale sarà di 25 metri, 13.000 metri quadrati da superficie. All'interno ci sono poi tutti gli uffici, gli spazi per le mostre, i servizi di ristorazione, un auditorium con una articolazione che richiama l'immagine del borgo italiano. Quindi piccole piazze, terrazze con caffè, porticati, in cima a una terrazza panoramica, un organismo, come dicevo, energicamente indipendente, quindi che non vuole deturpare il paesaggio ma integrarsi con esso. Quindi in cima ci sono i pannelli fotovoltaici per catturare l'energia solare, poi c'è il recupero dell'acqua di falda dal terreno. Il costo totale sarà di 40 milioni di euro, dovrebbe essere completato nel marzo 2015. Piccola curiosità, un'indiscrezione che abbiamo raccolto poi dopo la conclusione dell'Expo nell'ottobre 2015, il padiglione non verrà smantellato ma dovrebbe ospitare uffici della Confcommercio. A te Simone. Grazie ad Alessandra Schepisi per questo collegamento. Noi andiamo a sentire adesso che cosa succede su strade e autostrade, torniamo subito dopo. Parleremo tra le altre cose di questa riforma per quanto riguarda i medici di base, questo atto di indirizzo che dovrebbe cambiare insomma com'è strutturata la cosa, come sostanzialmente ci andiamo a curare, se volete. A tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. A Pontida, provincia di Bergamo, non si abbassano le sbarre di un passaggio a livello, un treno ha investito un'ambulanza, morti padre e figlio, gravissimo l'autista. Legge di stabilità senza modifiche, 3 milioni e mezzo di disoccupati, dice Angeletti. Oggi riunione della Banca Centrale Europea e dopo i dati sull'inflazione qualcuno spera in un taglio dei tassi. 20 morti sospette negli stabilimenti Olivetti, 15 morti sospette negli stabilimenti Olivetti. La procura di Ivrea apre un'inchiesta, si ipotizza che la causa sia l'amianto, indagati anche De Benedetti e Passera. PD, ancora il tesseramento al centro della discussione. Renzi ha aperto ad uno stop dopo i problemi dei giorni scorsi. Ed è proprio da qua che ricominciamo, dalla questione del tesseramento all'interno del Partito Democratico. Saluto Pippo Civati, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Che è, tra, come sapete, tra i candidati alla carica di segretario in corsa per le primarie. Mi sembra che lei si sia opposto alla chiusura del tesseramento. Come mai? Beh, guardi, perché è un'iniziativa molto tardiva e parziale, comprensibile perché i pasticci sono talmente tanti che sono tutti in grande imbarazzo, meno comprensibile per il fatto che questi pasticci ci sono stati e non c'è stata la volontà di fermarli al momento opportuno, cioè mentre si stavano appunto palesando nella vita del Partito Democratico. Dice oggi Zoggia, dice il caos non è colpa dei candidati, cioè di voi quattro sostanzialmente, che non sanno esattamente quello che accade sul territorio, ma dei RAS di provincia. Condivide questa impostazione o pensa che ci sia qualcuno dei suoi opponenti, per così dire, che invece su questo abbia giocato? No, purtroppo è scandaloso dire così. Perché o i nostri candidati sono dei deficienti oppure dovrebbero conoscere il loro sostenitore a livello locale. Io posso solo dirle che i miei sostenitori non hanno fatto niente di tutto quello che si racconta. E io fin dall'inizio ho detto che li avrei espulsi dalla corsa congressuale se avessi trovato comportamenti come questi che sono inaccettabili. Dire che nessuno sapeva, che tutto è capitato per dinamiche locali, non è corretto nel momento in cui poi i due candidati di cui parlano i giornali si spartiscono vittorie nei congressi, dicono di aver vinto, di aver perso, insomma la confusione è totale. Quello che io chiedo è che adesso si sanzionino i comportamenti sbagliati, si denuncino e si congelino i congressi che si sono svolti in questo modo e che si riparta da posizioni di civiltà diverse. Ma quindi, Civati, mi sembra di capire quello che lei dice senza dirlo esplicitamente, quindi le chiedo di dirlo esplicitamente, è che Cuperlo e Renzi su questa cosa dei RAS di provincia ci hanno giocato e probabilmente sapevano. No, guardi, non è che ci hanno giocato, è che hanno fatto finta di non vederli, punto. Se questa è la migliore delle ipotesi, perché non esiste che ci siano dei comportamenti, dei tesseramenti così esagerati, fuori proporzione in province dove c'è un'attività politica da parte nostra. Io quando sono arrivato a Catania ho iniziato a raccontare questa storia, era 3 settimane fa, ho spiegato che c'erano comportamenti sbagliati e non erano fatti naturali, capisce, calamità, erano scelte politiche. Io ho rifiutato questa logica, mi sono augurato che la rifiutassero anche gli altri. Renzi all'inizio della settimana al Messaggero ha detto che non gli interessava l'argomento, oggi dice che dobbiamo parlare di disoccupati, si figuri, io ieri sera ero a Piombino a parlare di persone che perdono il posto di lavoro e con loro per cercare una soluzione, però non è così che si superano i problemi, se si vuole fare segretario di un partito si deve vigilare proprio sui RAS locali, chi non l'ha fatto ha sbagliato. Grazie a Pippo Civati per essere stato con noi e in bocca al lupo per la sua corsa. Insomma, non perché sia Civati, nel senso facciamo in bocca al lupo a tutti quanti. Adesso noi cambiamo argomento e passiamo a parlare di sanità. Allora, oggi il Sole 24 Ore pubblica, anzi anticipa, l'atto di indirizzo per il rinnovo delle convenzioni dei medici di base con il Servizio Sanitario Nazionale. Allora, detta così vi sembra, sembra... Di cosa state parlando? Stiamo parlando di come si strutturerà la sanità per quanto riguarda i medici di base nel nostro paese nel prossimo futuro. E di cosa si parla? Si parla di un servizio 24 ore su 24, si parla di studi, da quel che abbiamo capito, nei quali dentro ci sono anche per esempio pediatri e specialisti. Saluto Giacomo Milillo, che è il segretario della Federazione dei Medici di Base, benvenuto. Buongiorno, grazie. Benvenuto. Allora, come giudica queste prime indicazioni? Innanzitutto se ne sapete qualcosa, se ne sa qualcosa di più rispetto a quello che ha pubblicato oggi il Sole 24 Ore, come le giudicate? Beh, purtroppo sappiamo quello che ha pubblicato il Sole 24 Ore, che è più informato dei diretti interessati. Questo comunque è il documento di ciò che le regioni desiderano realizzare con l'accordo collettivo nazionale. Poi a questo seguirà una contrattazione che è sostanzialmente poi detterà le norme a cui dovranno uniformarsi tutti i medici e l'organizzazione del servizio. Comunque noi su alcuni obiettivi siamo favorevoli, siamo stati anche promotori di un cambiamento importante della medicina generale, che conservando comunque la scelta del medico, il rapporto di fiducia continuato nel tempo, desse a ciascun medico un'organizzazione più complessa. Per cui noi stiamo premendo perché il medico non lavori più da solo, ma in squadre di colleghi, ciascuno dei quali ottiene la collaborazione di tutti gli altri. Quindi il singolo cittadino, quando si rivolgerà al suo medico, riceverà le risposte più complete alle sue esigenze, anche grazie alla collaborazione di tutti gli altri colleghi che fanno parte della squadra. L'ipotesi che si creino queste sorta di associazioni, diciamo, di studi associati, nei quali aperti anche 24 ore su 24, è molto interessante perché comporterebbe anche uno svuotamento di pronto soccorso. Ma guardi, le esperienze internazionali non hanno sempre dimostrato questo, però sicuramente sarà più comodo per i cittadini rivolgersi nello studio più vicino del proprio medico di famiglia se è sicuro di avere le risposte complete. Quindi perlomeno svuoteremo i pronti soccorso, allontaneremo dal pronto soccorso le cose che non hanno bisogno di una struttura ospedaliera alle spalle, quindi un beneficio comunque è atteso. E ultima domanda che le voglio fare: c'è una questione che riguarda i compensi, da quel che ho capito, che potrebbe rappresentare un problema, ce la spiega? Ma guardi, noi abbiamo dato disponibilità fin da quando la convenzione è stata dettata dalla cosiddetta legge Balduzzi, che è dovuto essere firmata entro l'11 maggio e non è stato fatto perché le regioni sono fortemente in ritardo. Noi abbiamo dato disponibilità ad un rinnovo normativo a costo zero, quindi non c'è contenzioso sul compenso. Quello che oggi ricevono i medici di medicina generale, domani, d'accordo, indipendentemente dal cambiamento delle regole, sarà uguale. Quindi non ci sono proprio argomenti di questo genere. E quindi siete soddisfatti in linea di massima? Cioè, se il lato di indirizzo dovesse essere questo? Se dovesse essere questo, ci si siederà al tavolo per capire dove si vuole arrivare. Non siamo completamente ottimisti perché non viviamo un rapporto di fiducia con le regioni. Le regioni sono tante, ognuna vuole fare a modo suo, e quindi questo è un elemento disturbante al Servizio Sanitario Nazionale, e noi ci troviamo a fare la parte di coloro che devono unificare e garantire a tutti i cittadini gli stessi diritti. Non è un percorso facile, però siamo volenterosi e speriamo di portare ai cittadini un risultato positivo. Grazie Giacomo Milillo, segretario della Federazione Medici di Base, per essere stato con noi. Noi continuiamo in qualche modo a parlare di medicina, in particolare di un fenomeno che si sta ampliando in Italia. È in aumento tra gli adolescenti il fenomeno del cosiddetto ritiro sociale. Sentiamo. Ikikomori, alla lettera stare in disparte. Ragazzi che rinunciano ad ogni contatto fisico con il mondo esterno, rifugiandosi in quello virtuale. In Giappone la gabbia è la cameretta, in Italia è tutto l'appartamento, con la conseguenza che tutta la famiglia diventa vittima e ostaggio di questo isolamento. È una delle patologie in vertiginoso aumento tra gli adolescenti, monitorate dal Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti, che festeggia in questo periodo i 50 anni di attività. Il capoluogo lombardo è un punto d'osservazione privilegiato per le trasformazioni sociali. La storia di questi decenni è anche quella delle patologie vecchie e nuove. Dalle nevrosi ai disturbi narcisistici, i pazienti oggi hanno un'identità sempre più incerta. Un'incertezza aggravata dalla crisi economica che li spinge a crearsi mondi paralleli costruiti sulle dipendenze, droga, ma anche gioco, sesso, iperconnessione. Mario Marinetti, presidente del CMP. Questi ragazzini che si chiudono in casa e dialogano soltanto col computer, lì creano un proprio mondo magico in cui non accade nulla di pericoloso per loro, ma però si chiudono alla vita. D'altra parte, molti ragazzini hanno avuto spesso come babysitter il televisore, il mondo della televisione, e quando crescono poi il mondo digitale di internet, un mondo illusorio, parallelo, in cui ciascun ragazzo può costruire una sua vita diversa da quella reale che gli è così difficile affrontare. Si rifugiano lì proprio le personalità che hanno meno strumenti affettivi per affrontare la difficoltà del crescere. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo per una pausa, come sempre a quest'ora sentiremo anche quali sono gli aggiornamenti dai mercati in attesa della decisione della Banca Centrale Europea, e poi torneremo a parlare ancora una volta di Terra dei Fuochi e ancora del tema dell'agroalimentare, e cercheremo di capire che impatto stanno avendo le nuove notizie che arrivano in queste ore, in queste settimane, sulla mozzarella di bufala campana. Ospiteremo un rappresentante del consorzio di tutela. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Si abbassano le sbarre di un passaggio a livello e poi si rialzano. A Pontida, provincia di Bergamo, un treno investe l'ambulanza, morti padre e figlio, gravissimo l'autista. Oggi riunione della Banca Centrale Europea. Dopo i dati sull'inflazione, qualcuno spera in un taglio dei tassi. Tra poco, una decina di minuti circa, si avranno le notizie da Francoforte. 20 morti, 15 morti sospette negli stabilimenti Olivetti. La procura di Ivrea apre un'inchiesta, si ipotizza che la causa sia l'amianto. La polizia greca fa irruzione nella sede della ERT, la TV pubblica chiusa in giugno, occupata dai dipendenti licenziati. Scontri e lancio di lacrimogeni. E adesso noi veniamo, come stiamo cercando di fare quasi tutti i giorni, a volte il tempo non ci basta, ma insomma oggi abbiamo deciso di tornarci sul tema della cosiddetta Terra dei Fuochi. Che cos'è la Terra dei Fuochi? È quell'area tra Caserta e Napoli nella quale nel corso degli anni la Camorra ha sepolto tonnellate e tonnellate di rifiuti, anche tossici, arrivando ad inquinare anche le falde acquifere e naturalmente i campi e l'agricoltura. È su questo che ci stiamo concentrando questa settimana, poi magari la settimana prossima torneremo su altro e parleremo delle questioni più strettamente collegate alla sanità, non disgiunte ovviamente da quelle che riguardano la situazione dell'agricoltura. Abbiamo parlato di pomodori nei giorni scorsi, oggi ci occupiamo della mozzarella di bufala campana. Saluto Antonio Lucisano, che è direttore del consorzio di tutela, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, grazie. Tra l'altro, già nel 2008, lo ricordiamo, ci fu uno scandalo e forte tensione intorno a questo prodotto, proprio perché fu scoperta della diossina nel latte di bufala. Allora, Lucisano, voglio capire un attimo com'è la situazione da voi, se questo ritorno di attenzione su questa vicenda vi sta creando problemi dal lato degli acquisti di mozzarella di bufala campana. Beh, certamente la campagna mediatica che è scaturita purtroppo soprattutto sulla scorta delle dichiarazioni di un pentito che la cui affidabilità voglio dire si commenta da sola, è stata abbastanza devastante. Si creano in casi del genere fenomeni di psicosi collettiva che francamente possiamo davvero considerare non giustificati dai dati di fatto. Io posso testimoniarle che nell'arco dei 3 anni in cui io sono qui come direttore del consorzio non c'è un solo dato, ma uno solo, che giustifichi questo tipo di allarmismo, né per quanto riguarda diossine, PCB, metalli pesanti o quant'altro si voglia immaginare come rischio per questo prodotto. Naturalmente ciò non vuol dire che il nostro attivamento... Però Lucisano, mi scusi, però i terreni contaminati sono là, sono nelle zone dove voi fate pascolare le bufale o no? Allora, noi abbiamo chiesto proprio l'altro ieri al Presidente della Giunta regionale di formalizzare definitivamente in modo ufficiale quali sono i siti contaminati, riconosciuti come tali da un punto di vista scientifico e non sulla scorta di dichiarazioni di personaggi. Mi scusi, Lucidano, perché dopo tutto questo ancora non si sa quali sono le zone contaminate. Guardi, è incredibile, è no? È incredibile, sì, perché continuano a circolare degli elenchi assolutamente privi di alcuna ufficialità, che seminano il panico senza ragioni. Noi abbiamo chiesto di conoscere quali sono quelli davvero da considerare inquinati, perché siamo certi che da quelli non derivi una sola goccia del latte che noi utilizziamo, e vogliamo mettere le nostre aziende nella condizione di poterlo dimostrare in maniera oggettiva, in maniera certificata. Mi scusi, Lucisano, ma non sono le stesse aziende? Le stesse aziende non potrebbero fare l'analisi dei terreni? Ma lo fanno, guardi, io le garantisco, le dico, sui dati analitici, sugli animali, sul latte e sulla mozzarella, non giustificano assolutamente nessun tipo di allarmismo. Ciò non vuol dire che noi non dobbiamo, per il principio proprio di precauzione, continuare in questa attività di controllo, ma per farlo abbiamo bisogno di sapere rispetto a quali siti in particolare dobbiamo certificare la nostra assoluta mancanza di collegamento. Questo è un dato che abbiamo chiesto insistentemente, la Regione si è impegnata a darcelo una volta per tutte. Quando? Questo... Vi ha dato una scadenza, no? Perché detto 48 ore. Il paese è particolare. 48 ore quando ve l'hanno detto? L'altro ieri, dunque io spero di poterlo avere quanto prima. Quindi quasi... sono già passate 48 e ancora non ce l'avete il dato, questa è la sostanza. In ogni caso noi siamo talmente sicuri del nostro della nostra situazione che la settimana prossima lanceremo una sfida alle principali associazioni di consumatori italiani, invitandole a prelevare blind, quindi alla cieca, del nostro prodotto dalla grande distribuzione italiana, inviarlo a nostre spese ad un laboratorio tedesco, proprio perché non vogliamo avere nessun tipo di dubbio su quello che facciamo, e i risultati li pubblicheremo la settimana successiva, appena pronti, sui giornali, sulle testate nazionali. Più di questo per dimostrare... Naturalmente, sì, più di questo non potete fare, ammesso che, insomma, dalla Germania, viste le storie passate, non vi tornino blu le mozzarelle. Adesso scherzi, scherzi a parte. Vorrei precisare che quando si sono verificati questi casi, per esempio, di mozzarelle blu che venivano dalla Germania o dalla Pianura Padana, noi non abbiamo fatto una pubblicità come quella che invece è stata fatta da qualche produttore padano, in maniera, devo dire, molto incauta e molto, molto superficiale. Insomma, ecco, mi lasci dire questo piccolo... Si vuole togliere questo sassolino. La pietrolina dalla scarpa ogni tanto bisognerebbe pure tirarsela via. Ultima domanda che le voglio fare è sul giro d'affari del consorzio di tutela, quindi più che altro delle aziende collegate a questo consorzio, e che impatto ha avuto la vicenda in termini di fatturato delle aziende? Guardi, noi parliamo di la mozzarella di bufala campana è una delle cinque principali eccellenze del Made in Italy agroalimentare, dunque stiamo rischiando davvero di mettere a repentaglio una ricchezza importante, è un giro d'affari intorno ai 500 milioni di euro, di cui il 25% viene esportato, e lei sa perfettamente che quando per esempio parliamo di export, un consumatore giapponese o uno californiano non fa grande differenza tra ciò che accade in Campania o ciò che accade in Pianura Padana, quindi noi rischiamo, se non facciamo chiarezza, e noi, ripeto, siamo i primi a volerla questa chiarezza, di pregiudicare un po' tutto il sistema dell'agroalimentare italiano, che, guardi, mi lasci dire una volta ancora, perché questo è veramente importante, è quello di gran lunga più sicuro di tutta Europa, e non ho difficoltà a dire di tutto il mondo, cioè nessuno Stato effettua i controlli che si effettuano in questo paese. Grazie Lucisano, la devo interrompere, la ringrazio, grazie Antonio Lucisano, direttore del Consorzio di Tutela della Bufala Campana DOP, per essere stato con noi. Come sempre qua in questa parte, in chiusura, ci occupiamo della legge elettorale e dello sciopero della fame che sta portando avanti ormai da 20 27 giorni, mi pare, siamo quasi sul mese, Roberto Giachetti, al quale si stanno unendo in staffetta altre persone. Un giorno di sciopero della fame in favore del cambiamento della legge elettorale. Chi abbiamo in linea oggi? Davide Ricca. Mestiere? Imprenditore, piccolo imprenditore. Come mai questo sciopero della fame? Perché bisogna dare una mano a Roberto Giachetti, che è stato lasciato solo anche dal suo partito rispetto a questa battaglia, e perché abbiamo bisogno di poter scegliere chi ci rappresenta in Parlamento, abbiamo bisogno di sapere chi vince le elezioni e di governi che durino e che siano legittimati dal voto popolare. Grazie Ricca, buona giornata e buon digiuno. Non so se sia oggi o se l'ha già fatto, comunque non importa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Appena battuta dalle agenzie, la Banca Centrale Europea ha deciso di tagliare il tasso di riferimento di un quarto di punto allo 0,25%, appena battuta da Radio Cori Il Sole 24 Ore. Ne parleremo più avanti, vi ricordo, di questo alle 14.01.02 circa in Europa 24. La cronaca a Pontida, in provincia di Bergamo, si abbassano e poi si rialzano le sbarre di un passaggio a livello. Un treno ha investito un'ambulanza, sono morti padre e figlio e l'autista dell'ambulanza è gravissimo. Legge di stabilità, senza modifiche, 3 milioni e mezzo di disoccupati, dice Angeletti. La polizia greca fa irruzione nella sede della ERT, la TV pubblica chiusa in giugno e occupata dai dipendenti licenziati. Scontri. E ora, naturalmente, vi sarete accorti che dai nostri titoli in questa giornata abbiamo omesso la quotazione in borsa di Twitter, perché è uno degli argomenti al centro di America 24. Ci parla anche di questo Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24, buongiorno Simone, da New York, Mario Platero. Il cinguettio di Twitter, Twitter ha un prezzo di collocamento. Dobbiamo domandarci se questo cinguettio, l'apertura di questa mattina del mercato, riuscirà a conquistare gli investitori. Il prezzo di collocamento è stato annunciato ieri notte, quota $26, per un totale di valutazione della società di $18 miliardi. Ecco, ci sono naturalmente alcuni dubbi, alcune preoccupazioni. Molti ricordano il collocamento di Facebook, ma allora c'era una situazione diversa, c'è qualche timore. In realtà devo dirvi che Twitter, per quel che lo uso, è uno strumento secondo me straordinariamente utile, e la decisione naturalmente poi la fa il mercato, al di là dell'utilità che posso avere io o che potete avere voi, cari ascoltatori, perché gli investitori devono poi verificare che ci sia un reddito, che ci siano delle condizioni buone. Dunque, questo è il punto di partenza. Il punto di arrivo ve lo racconterò domani. Intanto passiamo alla politica. Oh Susanna, canzone classica dell'Alabama. Questo ci porta proprio in Alabama, perché secondo me un risultato elettorale molto minore nel primo distretto dell'Alabama, che include cittadine come Mobile oppure come Monroe, ha avuto un risultato molto molto importante per dare una chiave politica a questa elezione del 5 novembre 2013. Perché in realtà abbiamo avuto dei risultati completamente divergenti fra loro. In Virginia ha vinto un democratico moderato, ma ha dato una bastonata all'esponente del Tea Party. In New Jersey ha vinto Chris Christie, un repubblicano duro nei confronti dei sindacati sul piano fiscale, però un repubblicano che è aperto al dialogo e che quindi anche lui prende le distanze dal Tea Party. Un denominatore comune in questi risultati elettorali che vanno dall'estrema sinistra di Blasio a New York alla destra del New Jersey al centro-sinistra, diciamo così, della Virginia con Terry McAuliffe, questo denominatore comune è un passo indietro, un po' una bastonata per i Tea Party, e il simbolo è proprio in Alabama, dove c'è stato uno scontro tra Bradley Byrne, un repubblicano, insomma l'Alabama, il Sud sono molto conservatore, dunque un repubblicano conservatore, ma non un estremista del Tea Party. Dean Young, il suo oppositore a queste primarie, perché il detentore del seggio alla Camera si era ritirato in agosto e dunque aveva lasciato questo seggio vacante. Martedì c'è stato soltanto lo scontro per le primarie per vedere chi si sarebbe poi confrontato con il democratico. Ebbene, il signor Byrne ha battuto duramente il signor Young. Il Tea Party aperto. Ma qual è l'elemento interessante? Che per la prima volta la Camera di Commercio americana di Washington, che aveva deciso di intervenire perché ritiene che l'estremismo del Tea Party col blocco del governo, con la linea dura che finisce poi per danneggiare l'economia, non è accettabile, ha finanziato la candidatura di Byrne. E dunque un messaggio molto chiaro per il paese. La Camera di Commercio ha dato $200,000, in totale ha raccolto Byrne $700,000 contro i $260,000 di Young. Dunque quel trauma della chiusura del governo, la polemica per il rinnovo del tetto sul debito, ha prodotto un risultato. Il Tea Party è in difficoltà e soprattutto la macchina più tradizionalista del Partito Repubblicano si è messa in moto e ha deciso di isolare e punire questi Tea Partisti che creano più problemi che altro. The people of this city have chosen a progressive path. Bene, chiudiamo con De Blasio, con New York. Ieri si è incontrato con il sindaco Michael Bloomberg e dopo tante promesse e l'entusiasmo della vittoria si rende conto che ha un po' di difficoltà davanti a lui. Intanto il bilancio della città ha un buco di $2 miliardi, poi a tavoli negoziali, 150 tavoli negoziali in rappresentanza di 300.000 lavoratori della municipalità di New York chiedono aumenti di stipendi retroattivi. Un impatto, pensate, di $6.3 miliardi su un bilancio cittadino di circa $70 miliardi. Le forze della polizia, che sono agitate perché sono state portate in tribunale, si sentono sotto attacco e soprattutto sotto attacco da parte del nuovo sindaco, che vuole una polizia più amichevole. Ma New York ha un tasso di criminalità molto molto basso, dunque deve fare attenzione Di Blasio, perché se poi alcune delle sue iniziative portano un aumento del tasso di criminalità, beh, questo non funzionerà. Dunque una serie di problemi. Un problema, devo dire, l'ho avuto anch'io, perché ieri, quando ho raccontato che lui, la moglie, rappresentano il simbolo dell'emancipazione razziale, del progressismo, beh, sono stato attaccato perché ho raccontato che lei ha avuto un passato di lesbica, è una storia tra l'altro assolutamente normale, quindi mi rendo conto che forse da noi molti ancora la pensano col paraocchi. Bill de Blasio e Charlene McRae sono una coppia rappresentativa di quello che può essere il futuro in America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, scrivetemi su Twitter. Beh, ieri mi avete scritto in molti, chiocciola Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Il nuovo disco degli Arcade Fire ha sfondato, uscito la settimana scorsa, adesso è già al numero uno nella classifica Billboard, 140.000 dischi già venduti. Degli Arcade Fire, Reflector. I found the connector. Just a reflector. Now the signal's reset. I'll deflect it again. We're so connected, but are we even friends? We fell in love when I was 19, and now we're staring at a screen. Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24. Ed è tutto, un ringraziamento a Fabio Cantadori in regia, Laura Faggin in redazione, un ringraziamento come sempre a tutta la redazione di Radio 24, un grazie a voi per l'ascolto. Effetto Giorno torna domani alle 13, naturalmente ci sentiamo tra poco con il giornale radio. Vi ricordo la notizia dell'ultima ora: la Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi allo 0,25%. A tra poco.